avanti. Avanti. Sì, sì, sal video. E avanti. Ciao Salvi, buonasera. Mi ascolti Salvi. Allora, mi sto provando un 48 modificato. Finita adesso di chiudermelo. A casa sono. Signore buono, come passo? Ma adesso cosa c'è? Anche il canale sì. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, era senza antenna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, è possibile, io sto uscendo. Tu sei a fondo scala, strano che non mi senti. Aspetta, provo l'altra radio. Voi non entrano nessuno. No, io sto uscendo, dai, non è problema mio, il problema è tuo. Mi sembrava strano, perché sto usando l'altra radio adesso, capito? Microfono normale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Male, te non mi sentivo, mi sembra strano, è attaccato a casa. Ciao, Claudio, non c'è. Prova, prova il tuo passaggio, fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso è giusto, ho un problema al PL, dai. Problema al PL, niente di grazie. Guarda, ma stai uscendo, mi pare possibile. Cioè, io ci ho attaccato altro momento qua, è possibile che non esco. Ma d'accordo. Capo, dai. Vediamo un attimino. Come stiamo andando qua? Ora ti arrivo io, fra. E qua c'è 9.40, ma sei vicino a me, capito? Sì, anche tu sei sulla B di DB, figurati. Facci più 30 da fondo scala. Claudio c'è, avanti Claudio. Ma hai sentito a Claudio? Io l'ho sentito. Non mi è sembrato lui, non lo so, non sono sicuro se era lui. Perché poi c'è stata un'altra soframodulazione, non ho capito bene. No, io non ho sentito a nessuno. Avanti che vuole entrare. C'è Eugenio di Porto Torres. Se mi serve una prova in distanza che devo andare a lavorare adesso, che qua la valvola è calda, dicevi. Che può dare un controllo in distanza, che Franco è il mio vicino di casa, quindi non fa testo. O anche senza antenna ci sentiamo. E l'altra com'è come radio? Va bene lo stesso? Sì, sì, vanno bene tutte e due. Dai, Franco, io me ne vado a traballare e poi domani faccio tutte le prove. Vabbè, dai, ciao, Salvi, dai. Finisco di chiuderla questa radio e ce l'ho aperta, dai. Sentiamo più tardi se coincide, ciao. Ascolta, dimmi dove l'ascolti la radio mia, fra. Pulita la radio. Ma passaggio. Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Franco, come mi ascolti? Va bene, dai, ti ascolto bene. Aspetta, guarda così la differenza, Aspetta, Adesso come mi ascolti? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Peggiorato o migliorato la radio? La radio così rimane più forte, ma attaccato lì poco fa. Poco fa l'ho attaccato. Ho fatto lo stai pilotando. Non lo so quanto sto pilotando. Quello lì è che infatti non voglio rischiare. Vabbè, io ho le tue posizioni qua. Posso attaccare al cavo o dell'uscita dai 4 ai 10 watt oppure da mezzo watt a 5 watt, a 4 watt. Sono due attacchi di PL, capito? Nelle trava track. Ho capito. Apro compreso, dai. Capa. Adesso sono liscio a casa di boh, ma sono uscendo tutto pochi watt, capito? Però dico, nonostante che siamo vicini, sa tu non mi sentivi, no? Ah no, perché io ti attenuo, capito? Quindi riesco a ascoltarti lo stesso. Capa, dai, adesso dai, va bene, fra, sentiamo che adesso devo scappare e vado al lavoro. Vabbè, dai, ciao Salvi, dai, finisco di chiudere questa radio, ciao ciao. Attenzione. Chi è l'alternata? Sessione 10, c'è qualcuno? Assolutamente nessuno. Ah, quindi questa è una voce, come si chiama, un disturbo. È un rivelatore automatico di accessi. Un beacon. E beh, già fra. È vero, beh. Per oggi abbiamo dato. È anche troppo. Sono completo. ricordato il cavo che ne avevo 2000, poi non me ne ricordato, l'altro giorno sono andato al cinese per comprare un coso, per attaccare a quella specie di monitor che ha le casse incorporate, ho messo l'uscita audio delle cuffie della scheda dal computer, l'ho attaccata alla RCA, blu, e non si sente niente, non ho capito se il problema dipende dal... Vabbè, la controprova la posso fare attaccando una cuffia per vedere se si sente qualcosa. Certo, ti devi mangiare, devi studiare, ti devi applicare, perché sennò non tiene niente. Io sono la mattina sventiando con un motore satellitare. Spero non sia partito, sia mezzo rincoglionito. Non è che sta più comandi. Che tipo di motore è? Con l'attuatore a pistone o come? No, è di quelli a braccio, praticamente fa anche la curvatura in modo da pescare più satelliti possibili. È un partianotto, è un Class Tech, ce l'ho da tanti anni, non vorrei che proprio in questo periodo fosse morto, ma speriamo di no. Lo dovrò rassettare domani. Quindi è a pistone, è un attuatore a pistone, cioè già lo conosco, ce l'avevo anche io. No, non c'è un attuatore a pistone, c'è un motore proprio. Il motore c'ha una, diciamo, un braccio a L, e questo braccio a L ruota praticamente, no? Posizionando le antenne secondo il diagramma di Smith, che si chiama, adesso non lo ricordo bene. Cioè c'è un braccio a L questo motore, spiegami com'è fatto, ma è cardano, cioè c'ha degli ingranaggi, come funziona? Non ho capito. Beh, l'ingranaggio ce l'ha di sicuro, non immaginare un motore che ruota in senso orizzontale, quelle sono per altre applicazioni, è un motore satellitare per i satelliti normali, diciamo, televisivi. E lui cosa fa? Praticamente lo posizioni, diciamo, inizialmente a sud, poi se di quelli anche che hanno le memorie, automaticamente si fa tutti i gradini e si trova tutti i satelliti. Lì dentro c'è una memoria praticamente dei satelliti già predisposta, che può anche cancellare. E niente, tutto lì. Sì, no, so benissimo come funziona, perché il discorso sono o a pistone o a cardano, cioè a ingranaggio, i posizionatori. Devi fare, ci vuole montaggio polare, naturalmente, se no non riesce a seguire l'arco polare, mica deve rigirare l'altra. Come ruota automaticamente per cambiare l'inclinazione, deve seguire l'arco polare, però non riesco a capire quel tipo di sistema che stai dicendo tu, a L, non riesco a capire come funziona, se riesci a spiegarmi. È ingranaggio, non c'ha pistoni, è ingranaggio semplicemente. Quindi lui staziona da una certa posizione, diciamo così, dal punto zero, come viene definito, e da lì fa una specie di U, diciamo così, una specie di U che sarebbe quello che tu chiami il diagramma polare, tutto lì. Sì, no, naturalmente se non riesci a fare, tu diciamo, lo metti normalmente il satellite centrale con lo tubillo a 13 gradi, ti fai il centro e poi te ne vai a sinistra di 90 e a destra di 90, anche se impossibile perché l'orizzonte non riesci a coprire, al massimo riesci ad arrivare a 65 gradi, arrivi 70 forse in certe zone, io riuscivo ad arrivare sino a 62 a sinistra e sino a 50 a destra di gradi, perché poi l'elevazione è talmente bassa, c'è cioè la prima al primo palazzo e non riesce a fare niente, diciamo se ti metti in mare forse riesci a farlo completamente il coso, perché i satelliti sono talmente in orbita bassa, a un certo punto l'antenna è praticamente verticale, per cui non riesci più a prendere niente, basta un qualunque ostacolo e non ce la fai. Perché io ce l'ho a due tipi, ce l'ho a pistone, quello la piccola, e poi c'ho quella grande che funziona, sono degli ingranaggi e c'ha la rotazione con questi ingranaggi qua. Sì, deve essere così come il mio. Ripeto, è abbastanza, ce l'aspettare oramai. funzionava fino all'altra settimana e poi evidentemente si è stufato. Adesso l'ho resetto, tanto che ho due pulsanti, no? Si devono tenere premuti per fare il reset motore e poi vediamo un po', perché insomma sarebbe da pulire, perché qua il connettore è sempre un problema. Deposita, praticamente ho dovuto tagliare i cosi, gli NNB, perché non si riusciva a togliere più, si sono saldati, quindi ho dovuto tagliare il filo, poi magari il metto in acido, vediamo cosa esce fuori, se si possono recuperare, ma tanto ne ho altri due nuovi, allora fra caso, la PLL, di qui uno lo utilizzerò per quel satellite famoso. Una domanda, siccome io ne ho un altro, uno dei primi che ho avuto, che posso dire è abbastanza preciso, c'hai un posizionatore esterno e ti dai gradi in digitale, ci sono i postanti est ovest, quello lì c'hai tu? Messo? Sì, ha registrato, un attimino. No, io lo faccio tramite le impostazioni del TV, no? Poi per gli altri mi arrangio, è un sistema diverso praticamente. Ma se c'è qualcuno che ha chiesto l'ingresso, avanti che vuole entrare. Ehi Robè, ciao, buonasera. Marco Scorpio, ma adesso ho acceso in macchina, stavo rientrando a casa e vi ho sentito, ciao, anche a Gianfranco. C'è qualcuno mi sta portando. Ciao Marco, ben sentito, avanti Gianfranco per Marco. Sì, io non l'ho sentita la portante. Marco arriva benissimo. Quindi non ho sentito niente per adesso. Se tu li riprendi Marco. Sì, niente, no, io ho provato perché. Importante adesso non ne sento, va bene. Buonasera, allora, ben sentiti, il discorso è bello interessante anche. E sono curioso di sapere, Robè, se poi avevi provato a fare girare questo rotore di quella parabola che hai a 26 gradi e vedere se riuscivi a ricevere il satellite utilizzando il CR7000. Allora, io sono impostata su un'altra indica, 46 gradi, ce l'ho, 46 gradi e mezzo. Comunque, quel satellite mi sono fermato, è QO100, sarebbe Qatar 100, e utilizza l'orbita normale a 36.000 km, io pensavo fosse in orbita bassa. Ho visto tutte le caratteristiche, ci sono delle cose molto molto interessanti. Qui ci sono i transponder utilizzati per le telecomunicazioni, il vecchio Arabsat è stato montato nel 2018 e ha sostituito la posizione dell'Arabsat vecchio che usavo tanti tanti anni fa. Ok, c'è anche Claudio, facciamolo venire avanti Claudio. No, io vi saluto, rimango in ascolto, intanto non capisco un accidente e non sarebbe giusto interrompere questo. Ciao Marco, buonasera anche a te. Riprende, vabbè, continuate che vi ascolto volentieri. No, Marco, non ho avuto modo di provarlo perché sono sintonizzato su un altro satellite, ma prevedo quanto prima, poi ti do tutte le informazioni. Utilizza la banda KA, non KU, quella che utilizzano normalmente le cose, ci sono un sacco di cose, c'ha una larghezza di banda, ho visto quanto, c'è un sacco di roba comunque, molto molto interessante, solo sento parlare, però mi sono informato più dettagliatamente. Probabilmente la stessa cosa che stavamo parlando prima con Gianfranco, avanti a te Gianfranco. Sì, ciao Claudio, buonasera. Ho ascoltato, sì, è quello su cui dovrei lavorare io, su quel satellite lì. Ovviamente la ricezione, la trasmissione non mi interessa perché toccherebbe impegnare un apparecchio, mettere praticamente un transverter per andare a 2000, a 2002, eccetera, in modo da poter avere l'accesso al satellite. Bastano 2 watt per transitare decentemente su quel trasponder. Mentre invece per la ricezione è abbastanza banale, occorre un NNB praticamente PLL, che ormai sono quasi tutti PLL, lo colleghi all'antenna e praticamente dovresti avere l'uscita, se non ricordo male, a 750 MHz, perché ovviamente lui riceve a 10.000, a 10 giga e lo trasforma, diciamo, poi l'energia con uscita a 750 MHz, quindi si può, con banale scanner si dovrebbe ascoltare senza problemi. C'è USB, CW in analogico e quelle cose lì, quindi è divertente, ecco, anche l'ascolto, perché non è una cosa molto difficile da realizzare, anche economica tra l'altro, perché chiunque ha un'antenna satellitare, una parabola, lo può fare. Qualcuno dice, ma io sono un po' scettico, che lo fa col solo NDP, ma punto di domanda, non ci credo molto. Riprendi, Marco. Sì, queste le tutte cose abbastanza giuste più o meno. Con l'LNP normale sì, puoi ricevere, ma sulla banda laterale con le conversioni che ci sono non riesci a demodulare correttamente, quindi continua come un po'. Allora si diceva cavallo burridore, perché scivola e va stabilizzato, ci va una modifica all'LNP e i migliori da impiegare sono gli octagon, vanno però, va messo un quarto, 25 mega, insomma c'è da lavorare, bisogna essere un po' esperti per fare queste cose o eventualmente reperire su internet qualcuno che li vende, che ormai c'è un mercato. Io praticamente ci lavoro su questo satellite da subito dopo che l'avevano reso operativo per i radioamatori e niente, sono da un anno e mezzo che mi diverto e faccio attività. E fra l'altro la cosa simpatica è un po' quella che dicevi Gianfra, ho un po' splittato addirittura per usare due ricevitori, uso un ricevitore SDR, un vero ricevitore SDR, non una pennetta, una pennettina che va bene comunque per incominciare, ma come tutte le cose, se uno vuole bisogna comprare qualcosa un po' più decente come ricevitore SDR. Allo stesso tempo splittare lo stesso segnale utilizzando lo stesso LNB con invece utilizzando la prima conversione, quella dell'LNB a 750 MHz, e lì con un ricevitore non propriamente così come hai detto, uno scannerino, perché con uno scannerino quelle frequenze, cioè incomincia già a non sentire niente, c'hai praticamente il noise floor che è talmente alto che non senti più un tubo, ma insomma con un ricevitore anche magari tipo 7000 come dicevo prima, o forse un FRG 9000, insomma un ricevitore un pochino decente, non un di quelli da 200 euro per intenderci, e con quelli riesci lo stesso a ricevere utilizzando la ricezione normalmente analogica, a differenza di SDR che ti permette di fare una marea di altri interventi sul segnale e poi soprattutto avere il waterfall, avere il l'ammettato di spettro, eccetera eccetera, un po' tutto quello che succede. Comunque è sicuramente una cosa molto, molto simpatica, e io proprio ieri così con Roberto ho fatto delle prove alcune prove in portatile perché a breve farò dell'attivazione utilizzando proprio il sistema in portatile. Va bene, passaggio allora a Roberto, saluto a Claudio che è arrivato, che è in ascolto, e a seguire Roberto puoi mi dire se farai queste prove. Sì, appena possibile, naturalmente cercherò di vedere qualcosa, anche di sentire, di vedere già le vedo abbastanza. Ma il convertitore è uno semplicissimo cosa, basta che abbia l'oscillatore a 9750, uno qualunque, non dico questi nuovi universali, quelli che hanno la conversione a 13-18 volt, lo puoi fare tranquillamente, il segnale è abbastanza forte, ho guardato lo spot, copre tutta l'Europa a parte dell'Africa, per cui non c'è problema. Invece le questioni digitali televisive, dice una parabola a 120 per cercare di tirarlo fuori, perché lo spot è orientato verso i paesi arabi e cose del genere. Comunque quel tipo di banda riesce a prendere anche con una parabola da 60. L'ideale, come avevi tu ieri, un 80 va più che bene. E poi c'è la conversione dell'apparato a 739 MHz, comunque il campo di ricezione di quella frequenza. Perfetto Gianfranco. Sì, sì. Allora, sì Marco, ma infatti non bisogna utilizzare quegli NB che scarottano a destra e a sinistra, che sono quelli ceramici, praticamente, che hanno il filtrino ceramico. Bisogna utilizzare quelli PLL, sia la marca che hai detto tu, ma anche il Fraccaro sono buoni. Anche se adesso anche quelli lì sono fatti tutti in Cina, comunque già sono buoni e si trovano anche più facilmente. Praticamente dentro un Fraccaro c'è quella marca lì, come era l'Orbicon o una cosa del genere. Se tu lo smonti praticamente sono identici e c'è un'ottima stabilità. Poi, vabbè, io ho detto scannerino, nel senso scannerini da 300-400 euro, io utilizzo solo roba, diciamo che un pochettino un po' più su, non molto, ma oltre i due sicuramente, perché se no da qua non riesce a fare niente. La pennina, già stavamo parlando con Roberto qualche giorno fa, metti la pennina qua e ci accendi la lampadina al massimo, perché io ho di fronte Monteoro e si porta dietro tutto il possibile immaginabile, quindi i giocattoli non vanno bene. E niente, è tutto lì. Ma comunque ci sono anche segnali digitali, il PSK eccetera, il CV, insomma tutte quelle cosette lì. Poi siamo voi quando andiamo in trasmissione. Quella modifica che dicevi tu Marco è per poter avere, portandolo a portandolo più giù come frequenza, se ne va praticamente in banda UHF a 400-430 giù di lì, no? E mentre invece se non te ne frega niente, se c'è la possibilità di usare il 700 e fischia, lo puoi lasciare com'è. No Gianfra, non è un problema di conversione di banda. È un problema di stabilità, capito? È un problema di stabilità. È così come vengono fuori quei NNB commerciali, ripeto, addirittura l'Octagon che è ritenuto uno dei migliori, non è sufficiente per garantirti una stabilità di frequenza, capito, nell'impiego della banda laterale. E allora, magari se uno piega AM, FM, il problema non sussiste immediatamente. Ma l'LNB classico, così comprato e messo lì, in banda laterale, a causa delle varie problematiche pertinenti alle conversioni, ma soprattutto anche le variazioni termiche, eccetera, non ha garanzie di stabilità. Adesso non ricordo a memoria, sono in macchina, quanto hanno normalmente, e invece con l'inserimento di un quarto ad hoc garantisce un netto miglioramento. Io difatti in un primo momento pensavo, e ho comprato, ho fatto delle prove con le LB commerciali, e adesso non mi ricordo se ho preso un Octagon proprio, riesci comunque a fare qualcosa, ma non è, cioè non va bene. Infatti tutti hanno messo mano, soprattutto i tedeschi che sono gli sponsor tra virgolette e i partner di questo di Esail, l'AMSAT DE sono partner ufficiali proprio di quello che è tutto quello che è software e hardware per la gestione di questo satellite. Hanno tutti effettuato questi interventi di modifica e oramai in rete, cioè se vuoi fare attività di trasmissione decente devi per forza assolutamente utilizzarti un NNB serio, perché sennò non riesci a rimanere stabile in frequenza, e poi vabbè, ci sono tutti, non è proprio semplice così come sembrerebbe, perché poi ci sono i problemi di riallineamento dell'indicatore di frequenza e che cose varie, allora c'è da lavorare, ecco, c'è un po' da fare, non è proprio una fesseria, ecco, non è che ci stia sul pulsante stai andando, no, c'è da mettere mano ed è divertente, forse proprio anche per quello che un po' appassiona a qualcuno degli amatori che vogliono seguire un po' queste cose. A me mi piace, vabbè, io satelliti li faccio dagli anni 80, dalla fine degli anni 80, e ho sempre continuato, e perciò come è venuto fuori dopo un po' mi sono attrezzato e devo dire che fra l'altro sono parte di Esaila, tra virgolette, ho anche, non so se vai a vedere, ho anche la, non mi ricordo se sono 119esimo socio, di socio iscritto lì al team di Q100, 118, comunque sono fra, subito dopo i primi 100 affiliati a Q100, e niente, faccio costantemente attività. Anche ieri siamo stati con Roberto a fare prove recettive, prima poi ho fatto un po' di vita da casa in trasmissione, così come quasi tutti i giorni oramai, e fra l'altro anche ho avuto anche piacere, e ho piacere di potermi fregiare del nominativo di AMSAT Italia, perché sono partner con AMSAT Italia e loro mi hanno dato possibilità di utilizzare il nominativo di AMSAT. Va bene, allora sentiamo se Claudio vuole intervenire, altrimenti ancora l'antenna a Roberto. No, Marco, ti ringrazio, mi sto facendo una cultura, non sono all'altezza di potervi seguire questa cosa. Vai Robe, grazie comunque Marco per avermi messo il microfono. Vai Robe, ti ascolto. Allora, il problema di questi convertitori nuovi, di nuova generazione, sono tutti, il 99% di quelli sul mercato, la commutazione orizzontale e verticale ce l'hanno con i 22 kHz, per cui la stabilità, come ha detto Marco, non è quella che può essere, diciamo, minima per avere un risultato. Quelli di vecchia generazione, quelli che commutano a 13-18, che io Marco eventualmente ne ho diverse, cioè anche cose molto molto importanti che costavano una barca di soldi, California Amplifier, che all'epoca era il top del top, costava 600.000 lire, per dire, paragonate a quelli che costano 13 euro adesso, e una bizza di cose, una figura di rumore bassissima, eccetera eccetera, deve utilizzare, come ha detto Marco, ci vogliono delle cose di qualità, che abbiano la commutazione 13-18 volt, a quel punto riesce a fare qualcosa. Poi naturalmente Marco tutte le informazioni tecniche più dettagliate ce le dà lui. Io quando facevo certi tipi di ricezioni satellitari, se non avevi quei sistemi lì non facevi niente, a parte che non esistevano ancora, gli universali sono arrivati 10 anni dopo, almeno da quando lo utilizzavo io, con quelli col polarizzatore che facevi tutti i tipi di circolare, destrosa, sinistrosa, eccetera eccetera, e lavoravi col coso, col polarizzatore magnetico, cioè avevo io su quel tipo di antenne, quella grande che c'ho io, per cui se vi serve qualcosa c'era ancora qualcuno a parte di quei convertitori 16-18 volt. Gianfranco, aspetta a te. Sì, perché sto sempre controllando anche un'altra cosa che c'è qua. E niente, cosa volevo dire? No, a me la trasmissione mi interessa poco, anche quel tipo di satellite, tra l'altro è una cosa un po' fuori range dal punto di vista applicativo, ecco. A me mi piacciono più io satelliti tipo Inmarsat e tutta quella serie lì, Iridium e compagnia cantante, anche se solo a livello ovviamente di ascolto, perché sono un po', diciamo, leggermente criptati, ma almeno dal punto di vista dei parametri si può benissimo ascoltare. Mentre invece come antenne, proprio per la 2002 dovrei avere qualche parabola ancora, perché noi le utilizzavamo per i sistemi di banda larga, ecco, che sono antenne professionali di alto livello della Cisco, e dovrei avere anche ricce trasmittenti sui 5 giga, però sono di lì, non ho mai avuto tempo di guardarle. Sicuramente funzionano perché erano nuove, il costo quando le abbiamo prese era esorbitante veramente, adesso non serviamo più a niente, quindi. E poi ci sono, cosa c'era? Vabbè, io l'ascolto un po' il satellite, però non è sono un po' così, capito? Dopo un po' mi annoio, quindi è solo uno sfizio tutto lì. Riprendi Marco. Sì, bene, non c'è nessuno, allora riprende il sottoscritto. E già fra 2.4 è l'uplink del satellite. 2.4, non 2.2, 2.4 e niente, io lì per andare in uplink, per entrare in satellite, ho costruito un'antenna elicoidale sperimentale su un piattello in alluminio, un'antenna adesso in rame, utilizzato del rame da 4 mm, se non ricordo male, e sperimentale, poi con un generatore d'antenna portata in risonanza, perché sai bene che salendo così tanto in alto comincia ad essere veramente difficile e complicato. Scivolamento repentino della curva del dip dell'antenna, e solo a spostare leggermente di qualche millimetro la distanza tra un fuggimento e l'altro, non veramente repentino e fastidioso. Comunque infatti va bloccata l'antenna, una volta costruita, va, una volta tarata bisogna immediatamente bloccarla, perché e poi vedere, fare prove anche di test in variazione termica per capire che cosa succede, e quando poi rimane esposta a 50 gradi, così come può essere, non so, il 15 d'agosto, onde evitare che va in trasmissione lì con pochi watt a 2 GHz e 4, ma la temperatura sale a modi di fornetto a microonde, a modi microonde, così tutto, e soprattutto ci butti soldi al transverter, perché poi il costo di quel lavoro si riduce in fumo. Vabbè, e beh, Gianfra, come tutte le cose, ci si annoia di più, ci si annoia di meno, ma questo contesto io non discutibile, insomma, poi è altra persona, c'è cioè chi piace sperimentare e fare, chi invece magari piace curiosare e poi si sposta ad altre cose. A me acchiappa molto in generale l'attività dei satelliti, un po' meno quelli che magari piacciono a te, ma amo più l'attività dei satelliti, dei LEO con orbita ellittica, lavoro su vari satelliti a 1,7, addirittura lavoravo con AO10, RS11, Radio Sputnik 11-12, eccetera eccetera, e adesso ci sono una marea di satelliti per poter fare attività sia in mano laterale o in digitale o in CW, cosa che io ormai ho dimenticato, ma bisogna che riprenda. Allora, l'antenna Roberto, lasciando mai ancora un attimino di bianco se qualcuno vuole partecipare al QSO. Vediamo un po' se vuole andare qualcuno avanti. Ti sei avvicinato, ti sento più forte adesso, Marco. Sì, non sono proprio vicino a te, ma sono diciamo a pochi chilometri di distanza, mi sono spostato, sono in movimento. Fasce 9.40, segnalone, se no facciamo così, tipo piazza le sedie, intorno così. Ok, no, mi parlando di satelliti, avanti ieri mi sembra, o due giorni fa, i cinesi ne hanno abbattuto uno di satellite di quelli militari in disuso, tutti i detriti hanno creato tanti di quei problemi, e addirittura la stazione spaziale dove c'era anche un cinese, sono dovuti rientrare nel coso di emergenza, nella capsula di emergenza, perché quei detriti non so quanti migliaia ne hanno causato, sono piccolini ma viaggiano a velocità esorbitanti e battono una scheggia altrimenti disintegra quello che trova. Ok, no, Marco, grande, grande appassionato, ho visto e fa sempre piacere ascoltare con persone competenti, gente che si appassiona a una cosa e che ha tante informazioni. L'ho visto ieri, mi ha chiamato, sono andato a vederlo con molto interesse, ho visto, mi ha colpito oltre che la ricezione di tutto quanto, come è riuscito a trovare il satellite così, con un tripiede, una parabola, una bussola, è riuscito a trovarlo subito. Non è così semplice, non stiamo cercando un satellite da 13, stiamo cercando una cosa un po' delicata. Diciamo, sono stato stupito, complimenti a Marco. Ok, di nuovo a te Gianfranco. Sì, sì, no, non entra nessuno, non mi spaventare. E niente, sì, in effetti Marco, tu sei portato più alla trasmissione, ecco, a grande distanza e satellitare, HF eccetera. Io invece sono più portato all'ambiente SWPOL, l'ho sempre detto, perché non c'è pericolo di rimanere all'asciutto, ecco, neanche nei tempi di crisi c'è sempre materiale su cui lavorare, anche troppo, perché poi non si riesce a portare a termine le cose. Io ho costruito un'antenna che ce l'ho qua vicino per Imarsat, con dei fogli particolari d'alluminio, e qua l'ho provata. In compenso se l'ha provata il gatto che ci va sopra e me la sta massacrando, perché come hai detto bastano pochi millimetri e il gioco diventa pesante. Anche questo succede. Ti volevo chiedere una cosa, Marco, ma mi è sfuggito un'informazione. Ti volevo chiedere, quando me lo ricordo te lo chiedo, riprendi Marco però. Ok, è così Gianfra, adesso quella prima che ho realizzato io di antenna è in rame pieno. Un po' più fastidiosa, infatti ho visto che anche altri che hanno costruito, hanno sperimentato, hanno usato il tubolare fine, tipo quello che viene impiegato per l'impiantifica, tipo climatizzatori di macchine o roba del genere, perciò sono tubicini di rame piuttosto che rame pieno, che è un po' più fastidioso a lavorare. Io adesso, ieri abbiamo utilizzato un LNB solamente, mentre questa nuova antenna elicoidale va montata su quell'LNB lì, cioè praticamente devo, mentre in altre circostanze, altre sperimentazioni hanno impiegato antenna chiamata Pozzi, dove viene costruita con un disco doppio disco coassiale rispetto all'LNB, io invece voglio utilizzare la elicoidale coassiale all'LNB. Vediamo, l'antenna è già a buon punto, ieri gli ho dato ancora un altro pochino di lavoro. Se riesco in settimana è pronta. Ho provato già a sollecitare l'amico radioamatore bulgaro che mi sta realizzando il transverter per pilotare lotte 18 o lotte 57 per l'attività mobile, con ingresso IF a 430 e auto a 240 a 2004. Vediamo un po' se la perdita che viene causata dall'utilizzo coassiale non è fastidiosa per il ricevitore, perché con quell'impianto che ho realizzato a casa, lì ho due dischi proprio, uno per la TX e l'altro per l'RX, è fantastico. Passo, anzi magari dopo cena, se poi tu ci sei, magari facciamo prova se riesci ad ascoltarmi tu sul satellite. Pensa che Laila, il controller del satellite, che ovviamente verifica gli ingressi e il downlink, certe volte quando il cielo è proprio chiaro, non ci sono problemi ed è, diciamo che ci sono nubi che comunque creano una riduzione di rendimento di gain dell'ERP, addirittura mi bannava, riuscivo a portarlo a livelli di essere bannato e con il segnale segretato che gli impedisce la ricezione agli ascoltatori di quella frequenza. Perciò con segnali che superano 9 più 10, pensa un po', con un ingresso di 4,5 watt e un output o poco più di 2 watt, ma mi faccio una tratta da 35.000 e fruscia chilometri, non è cosa da poco. Allora, vediamo un po', ancora un attimo di bianco e poi ancora a Roberto l'antenna per il QSO Marco Scorpio. Scusa Roberto, scusa, ma mi sono ricordato quando ero, poi me lo ridimentico. Ne ho parlato anche con Antonio una volta, mi ricordo. Ma è possibile che noi intesi come in Sardegna o Nord Sardegna, come preferisci, siamo molto esposti dal punto di vista propagativo nei confronti dei paesi dell'est, tipo, che so, in primis